È il bello della diretta. Radio. Io sono Andrea, sono un nuovo speaker, sono onorato di poter far parte del Brancaleone che giustamente ci ospita e ringrazio logicamente anche il gruppo Gemini Radio, cioè Gemini Network, e siamo qui. Questa sarà la prima puntata, sono molto emozionato, felice. E vi narrerò probabilmente nei prossimi giorni, ma anche nella puntata diciamo odierna, aneddoti, storie, musiche inerenti alle mie diciamo passioni, ma anche le passioni diciamo penso del pubblico, gli amanti di videogiochi, serie TV, film e simili. E ho voluto iniziare questa trasmissione con una canzone di Bob Marley. Perché? Perché, anche se non c'entra con i videogiochi, perché è una canzone che trovo molto bella e soprattutto perché al cinema, visto che stavamo parlando di cinema, è uscito un film inerente proprio a Bob Marley, che tra l'altro suggerirei di andare a vedere perché comunque è uno tra i tanti biopic fatti su artisti musicali. Mi vengono in mente ad esempio Bohemian Rhapsody, film dove un grandissimo Rami Malek interpretava appunto Freddie Mercury, oppure il film su Elton John, che al momento però mi sfugge il nome, mi pare fosse come si chiama la canzone? Vabbè, il film su Elton John. Insomma, non diciamo, sapevo nemmeno l'esistenza. Grazie. No, te lo consiglio comunque, è un bel film. Sì, anche perché Elton John è un artista abbastanza eclettico, quindi assolutamente. E quindi niente, ho voluto iniziare il programma parlando diciamo di un argomento esterno teoricamente all'argomento a cui dovevo parlare, però mi piaceva iniziare così. Ma visto che ci siamo, vi introduco una nuova musica inerente sempre al campo dei videogiochi che penso potrete apprezzare. Questa era un pezzo tratto da uno dei videogiochi, penso punta e clicca più belli della storia dei videogiochi, ovvero Monkey Island. Molti avranno, immagino, tanti ricordi di quel titolo, degli enigmi geniali, estremamente buffi e divertenti da risolvere, ma che tante volte, in un'epoca in cui magari internet non era neanche disponibile come diciamo ai giorni odierni, era più difficile trovare una soluzione per risolvere, diciamo, determinati enigmi. Però se trovavi la soluzione ti divertivi perché erano proprio soluzioni, come dire, molto divertenti e molto Fantasiosa. fantasiose, esatto. Dopotutto c'era la Lucasfilm, mi pare la Lucasgate, comunque dietro la produzione di questo gioco, quindi insomma un titolo straordinario con una colonna sonora straordinaria. E poi mi sembrava coerente da usare come, diciamo, sigla iniziale della prima puntata, per il semplice motivo perché siamo su Pirate Radio, d'altronde il gioco si chiama Monkey Island, è un gioco insomma con cui ci sono anche i pirati di mezzo. Noi siamo pirati sotto tutti i punti di vista, però siamo pirati seri, cioè nel senso che abbiamo studiato per diventare pirati. Assolutamente, e quindi mi sembrava coerente con il contesto e non a caso. Tra poco vi introdurrò un'altra canzone, diciamo un'altra musica inerente proprio ai pirati e un videogioco appunto sui pirati. Direi di passare il pezzo si chiama Boson Bill. Del gioco Sea of Thieves, un videogioco meraviglioso anche questo, edito da Microsoft con gli studi degli Xbox. È un gioco che tra l'altro è uscito nel 2018, è un action adventure per chi non lo sapesse, ovvero adesso Pietro, che immagino tu sei un grande esperto, no, di videogiochi. Vedi dalla faccia proprio. Intanto buon pomeriggio a tutti e Buon pomeriggio a tutte. tutti, scusate, effettivamente non mi sono Ah no, presentato, ma non mi sono presentato nemmeno però io, quindi iniziamo da capo, dai. ricominciamo da capo. Va bene, mi presento, sono Andrea D'Ameli, sono un nuovo speaker e mi fa molto piacere, insomma, iniziare questa avventura con Pirate Radio. Il programma che state ascoltando si chiama Elisten. Elisten perché? Non vi starete chiedendo, cioè, nel senso, perché mi state ascoltando, giustamente, no? Perché vuol di tutto e vuol Perché di va di tutto o niente. di niente. No, in realtà c'è una chicchetta che i videogiocatori potranno cogliere, penso, almeno i Nintendari, chiamiamoli così, ovvero coloro che apprezzano particolarmente, diciamo, il brand Nintendo, comunque i giochi a loro dedicati, e ho deciso di chiamare questo programma, ovviamente poi consultandomi con altre persone, Elisten, perché nel mondo di The Legend of Zelda Ocarina of Time, un videogioco tra l'altro meraviglioso, uscito molti anni fa, ma comunque ancora estremamente godibile per una, diciamo, vabbè, una console che sia Nintendo 64, non so se Sì, questa Nintendo ancora ci arrivo. No, perché allora, l'antefatto di tutto, intanto buonasera a tutti e a tutti, io sono Pietro di Pirate Radio, sono in qualità di ospite in questa puntata perché obiettivamente, appunto, Andrea ha iniziato a parlare, ma guardandomi. Io con lui abbiamo, cioè, gli ho dato un aiuto in questo, nel senso che per me l'argomento è tabula rasa, cioè nel senso che non conosco assolutamente niente. La mia conoscenza, come raccontavo ad Andrea, fin dalla prima volta che ci siamo iniziati a a frequentare. frequentare e compagnia bella, ho detto: guarda, Andrea, purtroppo perdonami, ma la mia conoscenza finisce fino alla Play 3. Dopodiché mi sono fermato. Quindi anzi, è l'occasione buona per iniziare A a colmare rigiocare, qualche a lacuna. conoscere. E beh, sono felice e orgoglioso di poter dare questa mano. Ti dirò, onestamente, fermandoti alla PlayStation 3 non hai fatto un grande danno, perché poi dopo l'industria, andando avanti, ma questa è una mia piccola critica, è peggiorata leggermente perché sono successe tutta una serie di cose, vedi, un botto di licenziamenti, studi inglobati che proprio dopo, insomma, Magari appunto ci discorsi sarà un po' più modo che esatto, magari nelle politici. prossime puntate. Nelle prossime puntate. Però comunque è sempre bello il mondo dei videogiochi. E raccontavo, insomma, del Nintendo 64, che è stata una console, perché per quanto mi riguarda, nella mia infanzia mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto crescere l'amore per questo mondo, e con cui per fortuna ho avuto il privilegio, insomma, di giocare e vivere l'epoca, appunto, dei capolavori, secondo me, made in Nintendo, ovvero appunto The Legend of Zelda Ocarina of Time, che ribadisco è un gioco che va assolutamente giocato, è ancora modernissimo, è stupendo, le canzoni, le musiche, Diciamo i tutto. famosi must, come appunto io dicevo, raccontavo ad Andrea che adesso si chiama FIFA 2000 e qualche cosa. Io ho iniziato che si chiamava. Anzi, EA e C, Ah, hanno già proprio avuto sì, nomi, hanno esatto. avuto i nomi più strani al mondo, E io quando ho FC24. iniziato a frequentare questo gioco, all'epoca si chiamava Is Pro Evolution, proprio cioè, la Vabbè, ma preistoria. preistoria vera, effettivamente. E quindi, insomma, sostanzialmente in The Legend of Zelda Ocarina of Time c'era un personaggio che aiutava il giocatore, rompendo in realtà molto le scatole, perché ti fermava praticamente ogni 3 secondi e ti faceva: Ehi, Listen, ehi, Listen, ehi, Listen. Tu dici: Che palle questa, dice ogni 3 secondi Listen. Però ti aiutava, e all'epoca che non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era un cazzo, diciamo, da questo punto di vista, avere qualche, diciamo, NPC, ovvero Illuminazione. illuminazione, ovvero un personaggio non giocante, che però ti aiutava, diceva: Guarda, gli fa questo, poi in inglese. All'epoca, da ragazzino, ero proprio madrelingua l'inglese, come tuttora. Era comunque un po' difficile, però era una sfida nella sfida. Infatti, i videogiochi perché sono belli? Perché anche se sono magari in lingua inglese, mi hanno aiutato pure tuttora a comprenderlo un pochettino Un po' come l'inglese, a vedere anche parlarlo. un Quindi, film come in vedere un lingua film originale. in lingua originale. Quindi mi sento felice di aver dato a questo programma il nome Elisten, perché poi comunque è versatile. Ovviamente la citazione sarà, diciamo, a questo personaggio, però è anche un programma versatile che parlerà sì di videogiochi, però la mia intenzione sarà anche di parlare magari di come sono nate alcune storie, ad esempio come è nato proprio il videogioco stesso, autori dei videogiochi importanti. Perché no? Anche la musica, magari fare dei paragoni, delle assonanze, almeno che io ho colto, poi non so se magari qualcun altro l'avrà fatto, però mi piacerebbe parlare anche di questo, di film, perché poi comunque esistono anche film inerenti ai videogiochi, Esatto, ce ne sono uno diversi. scambio, una Una condivisione di più condivisione di mondi. più mondi, ma ci sono anche cose sociali inerenti ai videogiochi, insomma, sarà un bel mondo, sarà pieno di questi racconti che spero vi piacerà, insomma, ascoltare ed essere appunto coccolati, diciamo, dalla mia voce e dalle voci eventuali degli altri ospiti, perché ci saranno ovviamente anche in futuro successivi ospiti. E che dire, prima avevo messo una canzone appunto di Sea of Thieves, diciamo sulla RAR, che era lo studio che ha prodotto questo videogioco. La RAR è un gioco, cioè uno studio che tra l'altro sempre nella mia infanzia mi ha accompagnato e che ha creato tanti giochi, tra questi c'è Donkey Kong. Donkey Kong Country, che è un altro gioco che uscì tantissimi anni fa, parliamo del 94, sul Super Nintendo. Beh, io vi voglio accompagnare in questo momento con il groove di Donkey Kong e quindi prego. cercando è stata è la musica, è la colonna sonora sostanzialmente di un videogioco, appunto, come dicevo, uscito nel lontano ormai 1994. Per Super Nintendo, si chiama Super Mario, Super Mario. Donkey Kong Country, sono usciti poi nel corso degli anni col personaggio proprio di Donkey Kong, tutta una serie di giochi inerenti proprio a Donkey Kong, con la nomea proprio del Donkey Kong Country. E questo è uno dei pezzi che sinceramente mi ha sempre divertito, mi è sempre piaciuto. Tra l'altro lo si può trovare in più videogiochi, sempre ovviamente di titoli Nintendo, ad esempio nella serie di picchiaduro chiamata Super Smash Bros., dove Donkey Kong è un personaggio, diciamo, giocabile da sempre, e quindi ho voluto rendere omaggio al simpatico scimmione di casa Nintendo con questo pezzo. Tra l'altro, sempre tramite questo simpatico scimmione è nata un'icona che io direi è storica, perché quest'icona è umana, cioè è interamente riconosciuta da tutto il mondo come, penso, una sorta di topolino mondiale. Mo, senza fare troppi giri di parole, di chi starò parlando, Pietro? Vabbè, l'unico, unico, quello che infatti dicevamo che è un'icona, che è Super Mario, giusto? Certo, è proprio lui, è Esatto. Super Mario. E io mi collegavo a questo discorso facendogli presente che l'unico di cui ho visto anche il cartone animato con mio nipote che è In uscito. sala l'anno scorso, Esatto. certo. E infatti è uno dei film di cui magari in una delle prossime puntate potremmo approfondire l'argomento con musiche e titoli, insomma, inerenti al famoso idraulico, appunto, italiano, che però è diventato, volente o nolente, un'icona mondiale dei videogiochi. E per omaggiare, appunto, anche questo O, simpatico. cioè, conosciuto, diciamo, perché infatti quello che raccontavo prima ad Andrea, perché comunque è un simbolo, cioè è un'icona sia dei bambini che per le persone anche di una certa età, Ma nel senso anche certo. io che ormai sono arrivato a 45 anni, cioè comunque Super Mario lo conosco da sempre. Esatto, ma generazioni di generazioni, mo ci sarà sempre qualcuno che apprezzerà il lavoro secondo me, il più grande game designer della storia dei videogiochi. Parliamo di Shigeru Miyamoto, autore, tra l'altro, di giochi meravigliosi come appunto la serie di Zelda, Pikmin, appunto Super Mario con i vari capitoli, ma visto che ci siamo, io vorrei omaggiare proprio, diciamo, Super Mario con uno dei temi di uno di quei giochi che sempre con il mio amatissimo Nintendo 64 all'epoca rimasi esterrefatto dalla grandezza dal mondo immerso che si passava, adesso faccio una premessa, dai giochi 2D, cioè quindi a scorrimento, mettiamo appunto il classico Super Mario, no? Esatto, Che perché io devi. raccontavo appunto ad Andrea che me lo ricordo che è stato uno dei primi giochi che ho avuto quando il primo computer all'epoca si chiamava Commodore C'è stata 64. anche una cassetta lì, ma soprattutto anche il NES, che è stata proprio la prima vera console, ma anche i cabinati, anzi in realtà prima i cabinati e poi successivamente, diciamo, appunto le home console, quindi NES, SNES, Super Nintendo 64 e cose, cioè, e console varie, scusatemi, sono un attimo impappinato. E immaginatevi un bambino nel lontano 96 con in mano un joystick, tra l'altro strano, a forma di, diciamo, triangolo, cioè c'aveva. Come posso definirlo? Hai presente Poseidone che Sì, c'aveva il. Uguale sopra, no? il Come si chiama? Il pomello. pomello. No, cioè, vabbè, insomma, c'era una forma, diciamo, molto strana. E in me, da bambino, ho avuto la possibilità, come immagino quasi tutti quelli che avranno giocato all'epoca, di immergermi per la prima volta in un mondo open world, si chiamano, ovvero, diciamo, abbastanza. Cioè, diciamo, da un concetto 2D dove tu prima avevi il personaggino e dovevi andare solo su un corridoio per raggiungere un obiettivo e finire la partita, questo gioco invece era tridimensionale, quindi già un cambiamento dal 2D al 3D, e avevi per la primissima volta la possibilità di girare dove volevi, vedere, certo con una grafica poligonale direte, però era un miracolo per il 96 e lo è tuttora perché se ci gioco ancora a me sinceramente mi vengono i brividi, e dove potevi girare ovunque, saltavi in un mondo o in un altro entrando nei quadri, e nei quadri c'erano questi nuovi livelli che ti davano la possibilità di andare avanti, perché tu dovevi andare a salvare la principessa Sì. Peach da Bowser, che ovviamente è sempre l'entità, diciamo, negativa, e recuperare delle stelle che servivano per aprire i portali che poi ti avrebbero portato appunto al boss finale, che era Bowser. Allora, io mi sento di voler omaggiare questa mia scelta con una canzone. In realtà ho sbagliato, era questa qui. E niente, lo omaggerò con questo tema, che è il tema del castello di Peach. Questa. Poi dopo però queste due cose siamo in diretta. In Super Mario 64, gran gioco che ribadisco, consiglio di recuperare se avete ancora la possibilità. In realtà, anche su Nintendo Switch, Sarà un po' difficile perché Nintendo che cosa ha fatto? Ha fatto una mossa un po' particolare, mettiamo un Eliminava. po'. No, vabbè, mi dissocio, ho scherzo, però nel senso è stata una mossa un po', diciamo, paraculetta, chiamiamola così. All'epoca, praticamente, all'epoca parliamo, mi pare, di 2 o 3 anni fa, per, mi sembra, il 25ennale della serie di Super Mario. Fece uscire su appunto console Nintendo Switch una collector, cioè un'edizione da collezione, insomma, così, con diciamo i giochi principali della serie di Mario. Quindi parliamo appunto di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, che sono 3 giochi che sono usciti rispettivamente per 3 console e 3 generazioni diverse, ovvero Nintendo 64, GameCube e Nintendo Wii. Cosa hanno pensato? Dice, vabbè, dai, famo uscire questi, cioè queste copie, però le facciamo uscire in maniera limitata, cioè nel senso, il giorno del 25ennale del compleanno di Super Mario facciamo uscire questo gioco. Arriverà la gente, se lo comprerà, però non ne produciamo tante copie, ne produciamo un X numero per un anno e dopodiché chi ce l'ha, ce l'ha. Se no, te la sei persa. Amen. Amen, la recupererai con il, diciamo, il mercato, Ricomprandola. ricomprandola usata da qualche santo che eventualmente venderà questo gioco. Perché? Perché in un'epoca, diciamo, attuale dove i videogiochi precedentemente li dovevi andare a comprare in negozio, appunto fisici, nelle edizioni fisiche, attualmente esiste l'opzione di comprarli in versione digitale. Eppure in negozio digitale Nintendo ha levato questa copia di questo gioco, quindi uno deve essere proprio strafortunato ad avere una copia, insomma, di questo Tu ce titolo. l'hai? Certo. Sgamato. Eh beh, vabbè, no, vabbè, diciamo Quante che ore di fila ti sei fatto? troppe, troppe, con la nostalgia purtroppo ci si gioca bene, nel senso, poi comunque l'avrei comprato lo stesso, diciamo che al cuor non si comanda, come si suol dire, no? E per me Esatto. Nintendo è una parte sostanzialmente di cuore. E visto che stiamo parlando di Nintendo, io vi vorrei parlare anche di canzoni, come dicevo, nel senso, al di là dei videogiochi, delle storie dei videogiochi che approfondiremo nelle prossime puntate, a me piace anche approfondire, diciamo, le musiche, Approfondiremo le nelle mille e mille cose. puntate. Sì, assolutamente. Mi piacerebbe, insomma, farvi sentire dei temi musicali e poi magari con l'occasione delle cover un po' particolari. In questo caso io ho scelto un tema, sempre di un titolo di Super Mario, che si chiama Super Mario RPG. Tra l'altro, questo gioco è uscito pure recentemente su Nintendo Switch, però è un remake, non è il gioco, diciamo, Non è la originale. versione Vabbè, originale. però graficamente è molto carino, Se la molto. Ci gioca. sono delle censure pure lì, cioè nel senso che il gioco originale c'aveva una scena in particolare, mo mi scuserete, potrei fare, diciamo, un mezzo spoiler, però tappatevi semmai le orecchie per pochi secondi. Ok, diciamo che c'è una scena dove Mario si può nascondere letteralmente dietro una finestra nella stanza di Peach. E che cosa può aver scoperto, diciamo, sotto le coperte del letto di Peach? Una cosa, diciamo, che non si può dire in radio, però Ok, abbiamo capito. Chi vuole diciamo, chi vuole capire, capire capisca, capisca. esatto. Se non era sotto le coperte, comunque c'era da qualche parte. E Nintendo, diciamo, questa scena nell'edizione recente ha L'ha pensato bene di censurata. censurarla e cancellarla. Però è sempre un bel gioco, è consigliato, quindi se volete Potete prenderlo, ritornare ritornate all'ascolto. all'ascolto. Bene, vi faccio sentire questo pezzo e poi una cover fatta da dei ragazzi su YouTube. No, ho sbagliato. Thank you. Con questo pezzo che si chiamava Forest Maids, che appunto, come ho detto, si può trovare in questo videogioco che si chiama Super Mario RPG, che tra l'altro, perché RPG? RPG sta per gioco di ruolo, sostanzialmente, per chi non sa le terminologie, e è un po' diverso rispetto agli altri Super Mario, c'è da dire, nel senso, immaginatevi di fare una sorta di, come posso spiegarlo in poche parole, diciamo, i combattimenti in Super Mario, basta semplicemente saltare ad esempio sulla tartarughina, il cupo, il funghetto, così per ucciderli. Invece in questo caso, per uccidere, diciamo, un nemico X, uccidere, diciamo, abbattere, così, c'è un combattimento letteralmente, c'è tipo un menu dove tu devi far fare la mossa al personaggino, poi ovviamente in questo gioco si uniranno anche altri elementi che ti aiutano, quindi non c'è solo Super Mario, però è un gioco molto, molto piacevole, lo suggerisco insomma. Ma siamo quasi in chiusura della trasmissione, della prima puntata di A-Listen. Ricordiamo a tutti anche che... poi daremo ovviamente tramite social Compagnia Bella gli estremi per poter andare ad ascoltare il podcast di questa puntata. Certo, e le puntate poi successive. Esatto. Che andranno in onda giovedì. Abbiamo detto giovedì dalle 17 alle 18 sostanzialmente, o comunque giù di lì. Poi ovviamente i cambi, seguiteci sui vari canali social e scoprirete se ci sono dei cambi di trasmissione, ma difficilmente subiremo cambi, insomma. Assolutamente. Approfitto della presenza di Pietro per richiedergli una domanda che forse prima avevamo fatto, cioè quali sono effettivamente i videogiochi, anche se non hai avuto una grandissima esperienza, hai detto, con i videogiochi, sì. Che diciamo ti sono rimasti più impressi, oppure appunto ne abbiamo parlato, uno era Super Mario, era l'altro, quando gli ho fatto questo nome Zelda, lui Andrea si è illuminato, quindi io da profano ora lascio l'argomento ad Andrea. Beh, ragazzi, qua è un pezzo di cuore, come dico io, un gioco anche questo, guarda caso, made in Nintendo, perché poi quando parleremo, diciamo, della storia dei videogiochi, Ovviamente ci sarà tutto un capitolo che io vorrò approfondire, tra questi c'è anche Nintendo, che per me, come ho già detto, è stata veramente una grande software house, lo è tuttora, certo con alti e bassi, però sì, e che sostanzialmente tra le varie opere uscite, appunto c'è Mario che è l'icona numero uno, però penso che la seconda, una tra le seconde icone o comunque tra le serie più apprezzate dai videogiocatori è proprio questa The Legend of Zelda, un gioco mastodontico con tantissimi capitoli, con tante sfumature, nel senso che ogni capitolo, non dico che era autoconclusivo, però c'erano delle sfumature diverse, diciamo, e poi con appunto il titolo che avevo annunciato prima, ovvero Ocarina of Time, si sono aperte addirittura delle linee temporanee, quindi i Ma multiversi, a chiamiamo. questo punto, Andrea, secondo me dovresti fare proprio una puntata Una su. puntata, beh, sì, ma qua ne Magari usciranno più di una un come tema, più di uno, dai, capitoli. capitoli su tutto, Zelda il primo, Ocarina of Time, Link to the Past, e qua c'è una Abbiamo riomba di aperto chili e chili di il argomentazioni. vaso di Pandora dei videogiochi, sì, assolutamente, ne avremo di cui parlare, ovviamente Magari anche adesso. con qualche ospite, Ma insomma, sì, come ma dicevi anche certamente, tu. io adesso ho aperto il mio cuore, diciamo, esprimendo sostanzialmente qual è il mio amore principale, diciamo, per i videogiochi, così. Però ovviamente ho avuto modo di giocare anche altre robe, altri giochi, altri titoli con altre console, ad esempio la PlayStation, appunto, non si può non No, menzionare. esatto. Io mi reputo tra i pochi cioè tra i pochi, tra i tanti fortunati, anche dagli ascoltatori, ad aver vissuto proprio anche la nascita della PlayStation, che era più o meno Sì. nel periodo appunto del Nintendo 64, e quindi come è cresciuta, i giochi tra questi importantissimi abbiamo, che ne so, ad esempio Metal Gear Solid, non so se Pietro, Sì, conosco, Metal Gear conosco. Solid, Crash Bandicoot, Sì. Spyro, e, Minecraft. Medieval, no, Minecraft quello dopo, Vabbè, sì, quello, però pure quello è diventato negli però anni un must della sì. Play. Beh, diciamo più PC Più Minecraft, più PC. computer, però sì, perché no, anche Minecraft si può aggiungere. Insomma, parleremo successivamente anche di tante altre cose. Zelda, per quanto mi riguarda, è il secondo brand più importante a livello di storia dei videogiochi. Nasce nell'86, ormai ha fatto 30 anni, più di 30 anni, insomma, di storia. Che dire? Io vorrei omaggiare questa serie, con cui, come ha detto giustamente Pietro, avremo modo successivamente di parlarne proprio con più enfasi e più, Magari diciamo, anche raccontando appunto qualche raccontando. cosa particolare, qualche Sì, chicchetta. come è nato, dietro c'è sempre Miyamoto, che è appunto questo grandissimo game designer, e sicuramente racconteremo delle chicchette in merito appunto alle creazioni dei vari capitoli. Il multiuniverso, diciamo, di Zelda, perché come ho detto ci sono diversi capitoli che fanno parte, insomma, di un'unica storia. E che dire? Omaggiamolo col titolo, con il tema ufficiale? Ma io direi di sì, dai. Legend of Zelda. La musica composta anche in questo caso da un grandissimo autore che, di cui poi magari prossimamente avrò modo di parlare, Koji Kondo, e che è padre, diciamo, di diverse colonne sonore, tutte veramente molto, molto, molto belle. Bene, siamo ai saluti finali. Questa puntata, diciamo, di A-Listen è stata la prima di tante altre che verranno. Ringrazio ovviamente Pietro Grazie a te, per Andrea. Un essere venuto, per avermi aiutato. E piacere, è stato un soprattutto appunto, piacere. torno a casa con qualche conoscenza in più. Assolutamente, sono onoratissimo, sono contento di poter far parte di questa famiglia di Grazie Pared Radio a te. e sono contento di aver la possibilità, insomma, di esprimere la mia passione per i videogiochi, film, La serie radio serve anche a con la questo, non è radio. detto che ci siano, come appunto si diceva all'inizio con Andrea, appena conosciuti, Andrea, non ti preoccupare, noi non è che non abbiamo, cioè nel senso, noi le frequenze le diamo perché è un piacere anche per noi dare la possibilità alla gente di poter raccontare quello che sa, cioè nel senso sono cose che tu hai competenze E e posso ho parlarne. passione e tutto quanto e sei in grado appunto con A-Listen di portarlo anche ad altre persone, quindi benvenuto a te, Andrea. Sono veramente onorato e felice di poterlo fare e prossimamente parleremo di tanti appunto argomenti. Mi piacerebbe parlarvi della storia dei videogiochi, proprio del concetto di Entriamo nel base, quindi vivo entriamo proprio nel proprio. vivo. E ci saranno, come ho promesso, altri ospiti. Quindi io vi ringrazio dell'ascolto. Ci sentiamo Giovedì. giovedì prossimo dalle 5 alle 6. E vorrei chiudere questa trasmissione, però permettimi, giusto così in Sì, chiusura, come con no. un artista che presumo, dopo tutte queste meravigliose canzoni, musiche dei videogiochi, un artista che per me ha significato tanto, anzi, significa tanto perché è Vabbè, un un signor signor artista, uno artista. dei pochi in Italia che secondo me ha una penna molto interessante nei testi. Certo, per me, diciamo, ho assistito a molti suoi concerti dal vivo, spesso in prima fila, ho conosciuto tante persone. Poi chissà, magari una di queste le inviterò tra l'altro in radio, Perché se no? vorrà venire, Vabbè, però ho no, la... già una mezza ideuzza. Beh, lasciatemi presentare Caparezza con Abiura di me, che mi sembra coerente con il contesto dei videogiochi. E quindi, grazie, un saluto a tutti, una buona Grazie a giornata. tutti, buona serata. Buona serata, buon proseguimento e a presto. Pensi che possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. È già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Il poker o le gomme, bye bye. Al limite può farmi una siga mega drive. Non mi vedrai salvare un solo lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma giocati il tuo Penny e premi Start. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura di me. Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a Guitar Hero. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un salto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi con Ami, se stacco le mani l'agitazione mi resta. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare